si riparte da un punto, da una linea qualunque, e non serve una meta né una stella cometa. Si riparte da un punto senza scuse o retaggi, da una pagina aperta, da una frase capita. Questo posto è un assurdo deserto, in un fitto mercato rionale, dove tutto ci sembra diverso, dove tutto è patetico e uguale. Abbiamo felicità per un sogno più vero, per la voglia di andare e coraggio si va e si fa questo capolavoro, la mia anima d'uomo. Si riparte da adesso, o per mare o per terra, costeggiando pensieri, scavalcando binari, o per terra o per cielo. Un saluto sincero agli amici perdessi, ed un gesto col dito a chi gufa o ci porge sbadigli. Sua copertina, dove tutto è una botta di vita, dove al cielo si chiede perdono e fortuna.